24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet. Un saluto da Valeria De Rosa, ben ritrovati a questo appuntamento con 24 ore in Europa. In primo piano l'incontro a Roma tra François Hollande e Mario Monti. I due presidenti hanno discusso della situazione economica e delle possibili soluzioni per la crisi dell'euro. Ma tiene ancora banco la revisione al ribasso delle previsioni sull'Unione Europea annunciata da Moody's. Una revisione che ha avuto una ricaduta anche sui listini del vecchio continente, che ieri, a eccezione di Madrid, hanno chiuso tutti con il segno meno. Sempre sul fronte della crisi, oggi la Troica torna ad Atene, chiedendo al governo ellenico modifiche pesanti per il mercato del lavoro. Crescita e stabilità, questi i punti chiave dell'incontro ieri a Villa Madama tra Mario Monti e François Hollande. La situazione economica e la crisi della zona euro hanno occupato gran parte delle due ore di colloquio. Nella conferenza stampa finale, sia il premier italiano che il presidente francese hanno fatto leva sullo spirito di collaborazione e l'unità di intenti tra i due paesi. Abbiamo potuto da un lato constatare, dall'altro spingere ancora più avanti la nostra identità di vedute per quanto riguarda le relazioni bilaterali, per quanto riguarda il clima da ristabilire per rilanciare l'economia europea nella stabilità dell'Eurozona. Piena sinergia dunque tra il Premier Monti e il Presidente francese Hollande. Due ore di colloquio per fare il punto sulla strategia salva euro e il piano per la crescita. E proprio questa deve essere la priorità secondo i due leader. Fare i compiti a casa, spiega infatti Monti, è indispensabile, ma non basta. D'accordo anche sulla centralità del problema dell'occupazione. Su questo Monti rivolge un appello alle parti sociali affinché acuiscano gli sforzi per creare più lavoro. Un vertice, spiega Hollande, che è servito anche per tracciare una roadmap in tre tappe per la zona euro, far applicare le decisioni del Consiglio UE, risolvere i problemi di Grecia e Spagna e realizzare l'unione bancaria. Nous avons finalement trois étapes. La première étape, c'est de faire appliquer les conclusions du Conseil européen des 28 et 29 juin. I due presidenti si danno appuntamento ai primi di dicembre per un prossimo bilaterale a Lione, stazione di arrivo della TAV. Siamo impegnati a completarla, assicura Monti. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. Dopo l'incontro, Hollande si è espresso anche sulla revisione al ribasso delle previsioni sull'Unione Europea, annunciata da Moody's. Non commento ancora le agenzie di rating, rispecchiano un'inquietudine, sta a noi fornire risposte, non commenti, così il presidente francese. Non affonda i mercati pur mandando in rosso quasi tutta l'Europa, ma mette ulteriore pressione sulla Banca Centrale Europea in vista della cruciale riunione di giovedì, il taglio di outlook da parte di Moody's nei confronti dell'Eurozona. L'agenzia di rating lo ha portato a negativo pur lasciando invariata la AAA, una previsione sul futuro peggiorata che fa il paio con le recenti variazioni di outlook che hanno colpito Germania, Olanda e Lussemburgo. Tutta l'attenzione è ora puntata verso dopodomani, quando il direttivo BCE dovrà almeno delineare i margini d'azione a difesa dell'euro. Nuove discrezioni sono emerse sull'audizione del presidente Mario Draghi ieri all'Europarlamento, che sottolineano la drammaticità del momento. Francamente tutto ciò ha molto a che fare con il proseguimento dell'esistenza della moneta unica, avrebbe affermato Draghi riferendosi alla necessità di uno scudo antispread secondo le trascrizioni ottenute dall'agenzia di stampa Bloomberg. Draghi ha ammesso come l'attuale situazione di frammentazione dell'Eurozona renda efficaci le politiche sui tassi di interesse solo in uno o due paesi su 17. Su un altro fronte aperto, quello greco, proprio Draghi vedrà il premier ellenico Samaras tra una settimana. Atene ha collocato sul mercato più di 1 miliardo di euro in titoli a 6 mesi con rendimenti in leggero calo. Le trattative con la Troica restano febbrili. Atene ha annunciato che il nuovo pacchetto di tagli di bilancio, pari a 11 miliardi e mezzo, sarà finalizzato tra meno di una settimana. Sergio Nava, Radio 24, il Sole 24 Ore. E come sentivate, i mercati del vecchio continente ieri si sono presi una pausa in attesa delle decisioni della BCE. Gli spread in ribasso dei paesi periferici hanno favorito Madrid, che ha chiuso con il segno più, mentre Milano è riuscita solo a limitare i danni con una flessione dello 0,29%. Perdite superiori al punto percentuale per Francoforte, Londra e Parigi. La Troica torna ad Atene. Oggi sono in calendario nuovi colloqui tra il governo greco e gli inviati di Bruxelles, dell'FMI e della BCE. Secondo indiscrezioni, la Troica insiste perché l'esecutivo modifichi la normativa sul lavoro prima della prossima parte di aiuti da oltre 31 miliardi. Le richieste sul tavolo sarebbero la settimana di lavoro più lunga, la liquidazione ridotta della metà in caso di altra pensione e licenziamenti più facili. Questo vuol dire che presto i dipendenti del settore privato greco potrebbero ritrovarsi a lavorare 6 giorni a settimana invece dei 5 lavorati fino ad oggi. I datori di lavoro dovrebbero poi poter licenziare più facilmente e a tale scopo la Troica proporrà di ridurre della metà, da 4-6 mesi a 2-3 mesi, la durata del periodo previsto per inviare al lavoratore l'avviso di licenziamento. A proposito di lavoro, gli ultimi dati che raccontano di chi, dall'Italia come dalla Grecia, lasciano il proprio paese per andare a lavorare in Germania. Un ritorno al passato. Se nel 2005 infatti gli italiani in Germania per lavoro erano 171.000, a maggio di quest'anno quelli regolarizzati erano oltre 232.000. I dati dell'Agenzia Tedesca del Lavoro parlano chiaro. Negli ultimi 3 anni in particolare, migliaia di italiani hanno fatto la valigia e sono andati a cercare fortuna in Germania. Gli italiani come i greci, gli spagnoli o i portoghesi, con la differenza che se in Grecia e Spagna la percentuale di disoccupazione supera il 20%, in Italia poco sopra il 10%. Ma si sa, contano anche i racconti dei nonni, le prospettive che sono poche, i richiami della stessa Germania. Sì, perché i tedeschi sono ancora in cerca di lavoratori ed ecco perché la fuga non è solo di cervelloni, ma anche di tanti più comuni cervelli. Come i 15 tecnici spagnoli selezionati da un'impresa della Bassa Sassonia che, non trovando soddisfazione in patria, è andata a scovarli fino a casa loro, come racconta Die Zeit, con una campagna di ricerca che ora intendono fare anche altre aziende del Baden-Württemberg. Tanto che l'Agenzia Federale del Lavoro ha deciso di organizzare un tour promozionale nell'Europa del Sud. Laura Bettini, Radio 24 e Sole 24 Ore. La Commissione europea ha formalmente aperto una procedura legale contro il monopolista russo del gas, Gazprom, sospettandolo di pratiche anticoncorrenziali nei paesi dell'Europa centro-orientale. L'avvio di questa procedura non implica un giudizio conclusivo relativo agli esiti dell'inchiesta, ma semplicemente che la Commissione ha attribuito a questa indagine la priorità. Bruxelles, si legge nel comunicato ufficiale della Commissione, ha aperto la procedura per indagare se Gazprom abbia impedito la competizione sui mercati del gas in Europa centrale e orientale, in violazione delle norme antitrust dell'Unione Europea. Il prossimo rapporto annuale della Commissione Europea sull'allargamento dell'Unione sarà pubblicato il 10 ottobre. Lo ha reso noto oggi Maja Kocsancic, una portavoce dell'esecutivo comunitario. È ancora troppo presto, ha spiegato la Kocsancic, per definire a che punto sono i progressi della Croazia rispetto agli impegni assunti prima della sua adesione all'Unione, prevista a luglio del 2013, in particolare nel campo della privatizzazione del settore cantieristico. A Strasburgo, 4 cittadini britannici fanno ricorso in nome della libertà religiosa. In Gran Bretagna conciliare fede e lavoro sembra diventato difficile, soprattutto se a dimostrarlo c'è un crocifisso al collo o un'osservanza troppo stretta del proprio credo. È quello che sostengono 4 cittadini britannici che hanno fatto ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo di Strasburgo denunciando discriminazioni sul posto di lavoro. Nadia Ueda, hostess della British Airways, sostiene di aver dovuto coprire il proprio crocifisso dietro all'uniforme. Lo stesso ha dovuto fare Shirley Chaplin, infermiera in un ospedale geriatrico a cui è stato ordinato di levarsi il monile, almeno durante la giornata lavorativa. Lillian Liddell, impiegato in un ufficio anagrafico, e Gary McFarlane, consulente nel campo dei disturbi sessuali, invece hanno sostenuto di essere stati osteggiati nella loro attività per essersi rifiutati di svolgere alcuni incarichi che, in certi casi, implicavano l'accettazione dell'omosessualità. Entrambi si rifiutavano di assistere coppie gay. Ora i 4 si sono rivolti alla Corte di Strasburgo, che dovrà valutare se sono stati vittime di discriminazione e se non è stata loro riconosciuta la libertà religiosa e quindi è stata violata la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo. Livio Lazzari, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Il mercato italiano del cinema in difficoltà rispetto agli altri paesi europei. Lo dicono i dati dell'Osservatorio Europeo dell'Audiovisivo presentati alla Mostra del Cinema di Venezia. Basta confrontare i dati con quelli degli altri paesi europei perché saltino all'occhio le difficoltà e le atipicità del mercato cinematografico italiano. Nel 2011 nelle sale italiane sono stati staccati 111 milioni di biglietti a fronte dei 216 della Francia e 171 della Gran Bretagna e 129 della Germania. Buona invece la quota di mercato dei film nazionali. Anche grazie a commedie di successo, l'anno scorso ha raggiunto il 41,7%, superando il 37,8% della Francia. Negativo, invece, il confronto relativo ai finanziamenti pubblici. Le risorse investite da Stato e Regioni sono state pari a 185 milioni di euro, mentre in Germania hanno toccato i 344 e in Francia addirittura 632 milioni. Basso anche l'investimento italiano complessivo, nel 2011 423 milioni di euro, mentre in Francia raggiunge i 1389 milioni. Record però per la Gran Bretagna, che nel 2011 ha investito nel cinema 1466 milioni di euro. Chi produce di più? I francesi, nel 2011 207 film contro i 92 dei tedeschi e i 90 degli inglesi. L'Italia 146, lontani dagli anni d'oro, ma con un'industria ancora viva nonostante la crisi. Marta Cagnola, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Venezia. È tutto per questo appuntamento con 24 Ore in Europa. Un ringraziamento a Daniele Teruzzi e un saluto da Valeria De Rosa. 24 Ore in Europa. In collaborazione con Euronet.